Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia di questa settimana. Allora, per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, come da più parti si sta facendo notare, sembra proprio che il governo non ce la possa fare a eliminare l'aumento dell'IVA. Va fatto notare che in effetti di tutto si è discusso, insomma, di cassa integrazione in deroga soprattutto, ma anche IMU. Nel primo Consiglio dei Ministri operativo del governo Letta, quello di venerdì scorso, sull'IVA c'è stato un po' di silenzio. Lo dico perché è giustissimo discutere dell'IMU per i fabbricati, per i campi agricoli, per la prima casa, il rinvio, vediamo poi se riuscirà a essere una vera e propria sospensione. Ma attenzione che sul fronte dei consumi l'aumento dell'IVA al 22% di un punto percentuale rischia di creare un danno anche peggiore rispetto all'IMU o altre pressioni fiscali. Oggi l'allarme lo lanciano i commercianti e ne parleremo in apertura del programma, nel giorno in cui andiamo a ricordare il sisma dell'Emilia Romagna, perché domani, vi ricordo, parte il viaggio di Radio 24 sul sisma. La nostra Laura Bettini è nei luoghi che purtroppo raccontammo un anno fa, i luoghi devastati dal terremoto, però già oggi c'è un primo bilancio rispetto all'operazione e agli investimenti. È vero che poi faremo un ulteriore viaggio anche il 29 maggio, perché vi fu, come ricorderete, purtroppo il secondo sciame con 28 vittime nel totale. La settimana prossima lo stesso premier Enrico Letta sarà nella regione per commemorare e accelerare sulla ricostruzione. Abbiamo vari dati e faremo il punto anche con gli industriali. Però dicevo, sul fronte dell'IVA, attenzione, perché abbiamo consumi depressi e onestamente c'è un primo calcolo da Confcommercio che dice: se l'IVA passerà dal 21 al 22% il prossimo 1 luglio, arriverà una stangata di 135 euro per le famiglie. Una famiglia media di 3 persone, un intervento che avrà un impatto sul 60-70% dei consumi. Addirittura il saldo finale potrebbe vedere sparire 26.000 imprese del commercio. Lo stesso allarme lo lancia oggi la Confesercenti e ne parleremo tra pochissimo. Per quello che riguarda invece gli altri temi, oltre all'Emilia Romagna, all'IVA, la borsa meno 0,60% oggi Milano, che è l'unica borsa negativa tra quelle a maggiore capitalizzazione. Parigi più 0,40%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,30%, euro su dollaro a quota 1,28,65. In realtà ci sono titoli che vanno abbastanza bene: STMicroelectronics più 3%, Prysmian più 2,5%, Banco Popolare più 2,40%, Fondiera Sai più 2%, Fiat più 1,60%, Fiat Industrial più 1,50%, A2A anch'essa più 1,5%, Monte dei Paschi più 1,5%, come la Pop Milano Azimut più 1,30%. Chi invece non va bene è Snam Rete Gas meno 3% ed Eni meno 2,60%, ancora Atlantia meno 2,70%. Attenzione, ci sono molti titoli che oggi staccano i dividendi, e nel caso specifico Snam Rete Gas, Atlantia, Eni, Pirelli e Lottomatica. Non è un caso, lo sappiamo, lo spiegamo ogni volta: quando c'è lo stacco della cedola il titolo perde, nel senso che si era mosso per arrivare fino allo stacco, a livello dello stacco della cedola, e non a caso i quattro titoli peggiori sono appunto Pirelli, Eni, Atlantia e Snam, ma anche l'Automatica, tutti i titoli che staccano oggi il dividendo, ed è anche uno dei motivi per cui Milano è più debole rispetto agli altri alle altre borse. Vedremo se riusciamo a fornirvi il dato di come sarebbe andato l'indice al di là, al netto dello stacco della cedola. 349-238-6666 per i vostri sms, poi la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. stiamo all'estero perché via libera del consiglio di amministrazione di Yahoo per l'offerta da 1,1 miliardi di dollari per Tumblr. L'ha confermato lo stesso board, lo stesso consiglio di amministrazione di Yahoo in un comunicato. Venendo invece all'Italia, lo spread nostro oscilla sui 250 punti con un rendimento del BTP a 10 anni al 3,86%, quello spagnolo a 281 punti. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in un messaggio in occasione dell'anniversario della morte e dell'uccisione di Massimo D'Antona, ha detto: la crisi angosciante e drammatica che vive l'Italia impone alle istituzioni, alle forze sociali, alle imprese la messa in atto di efficaci soluzioni per rilanciare l'occupazione e lo sviluppo economico e sociale del paese. La crisi è quindi angosciante, secondo il Presidente della Repubblica, e occorre ridare e rilanciare attenzione alla centralità del lavoro. E il Ministro per lo Sviluppo Economico, Zanonato, a margine di un incontro in Consiglio Regionale del Veneto, ha detto: una cosa importantissima oggi viene prima di altre, dare ossigeno al sistema del credito per le imprese. Tra l'altro, sul tema dell'IVA, oggi l'unica nota, l'unico intervento è quello del Vice Ministro dell'Economia Luigi Casero, che ad un convegno della Camera di Commercio Americana in Italia ha detto: attenzione, dobbiamo cercare di affrontare la questione dell'incremento dell'IVA dell'1% a luglio, perché può portare alla sfiducia nei consumatori. E poi la vicenda IMU. Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni che Matteo Renzi oggi a Radio 24 questa mattina nel programma di Alessandro Milan ha reso, perché sull'IMU ha detto: attenzione, l'intervento sull'IMU è una cambiale che si paga all'accordo con Berlusconi. Credo che sia giusto abbassare le tasse, ma mi piacerebbe capire dove partire. Noi a Firenze siamo partiti dall'IRPEF, l'IMU sulla prima casa quando c'era l'avevamo al minimo, ma sulla seconda e terza casa era al massimo. Sentiamo questo passaggio. Io penso che la sinistra debba uscire, perlomeno la sinistra che piace a me, dall'idea che le tasse siano l'unico motore dello sviluppo di un territorio. Mi spiego. In America può avere senso alzare le tasse, ovviamente, a specie ai più ricchi, perché il livello di pressione fiscale è imparagonabile. In Italia si lavora fino al 20 luglio per far contento il fisco. Allora, o capiamo che su questo tema dobbiamo immediatamente dare un segnale, oppure veramente perdiamo il contatto con la realtà. Il fatto di aver intervenuti sull'IMU è naturalmente una cambiale che si paga all'accordo con Berlusconi, questo è evidente. Io credo che sia giusto abbassare le tasse, mi piacerebbe capire da dove partire. Da noi in Firenze siamo partiti dall'IRPEF, l'IMU sulla prima casa quando c'era l'avevamo al minimo, ma l'IMU sulla seconda, terza, quarta, quinta casa era al massimo. Ognuno la può pensare come vuole sull'IMU. Dico semplicemente che chiaramente tutti siamo a favore dell'eliminazione dell'IMU, essendo comunque una forma di tassa tra virgolette patrimoniale, anche perché se poi funziona male, perché in questo stato in cui non si riesce a fare un serio adeguamento catastale, ci sono persone che pagano un'alta IMU per appartamenti di un valore medio e persone che pagano una bassissima IMU sulla prima casa per appartamenti di valore alto ma non secondo il catasto. Però da un punto di vista, diciamo, delle politiche per i consumi, io mi chiedo se levare l'IMU serva più che non abbassare le tasse in busta paga, cioè su chi le tasse le paga tutte perché l'ha trattenuta la fonte. Su questo avrei dei dubbi, fermo restando che se non c'è fiducia nel futuro e una chiara linea su quello che farà l'Italia e farà l'Europa, uno, i 300, 400, 500 euro di IMU, una tantum, o anche l'abbassamento della tassazione in busta paga, li mette nel salvadanaio, non li spende quando non c'è fiducia. Però sul fronte dei consumi mi chiedo se non sia meglio ragionare anche in un abbassamento soprattutto del cuneo fiscale, o per esempio incentivi fiscali alle imprese per le neoassunzioni, per cui pagare meno contributi per i neoassunti. Sulla seconda, terza, quarta e quinta casa, abbiate pazienza, siamo d'accordo che delle volte la seconda casa sia frutto dei risparmi, però se devi andare a scegliere è chiaro che andrei a colpire anche chi ha una seconda e terza casa. È il è una specie di imposta patrimoniale, visto che molti evocano l'imposta patrimoniale, è l'unica forma di imposta patrimoniale che c'è in Italia. Allora, chi mi contesta, no, guardi che la l'IMU la pago anch'io, come tutti quelli che hanno un mutuo, nel senso, cioè, per una casa. Sto solo dicendo che dal punto di vista dell'effetto economico mi chiedo se non sia un effetto un po' troppo una tantum, mentre un abbassamento delle tasse sul lavoro, ma anche di addizionali IRPEF e quant'altro, non possa avere un effetto più strutturale. A me del confronto politico non interessa nulla, non interessa chi sponsorizza l'IMU, chi invece è più scettico sull'IMU. Comunque, andiamo avanti, perché dal punto di vista dei dati della nostra industria, marzo è stato un mese pesante, meno 7,6% rispetto a marzo del 2012, e quindi abbiamo iniziato frenando bruscamente nel 2013, tant'è che il dato, il meno 7,6% rispetto a un anno prima, è il più brutto dal 2009, da quando appunto vi fu un tracollo di tutta la produzione industriale a livello mondiale e anche europeo. Noi facciamo un meno 25%, è il quindicesimo calo consecutivo ed è il più forte dall'ottobre del 2009, appunto. Pesa soprattutto il mercato interno, cioè la frenata, stagnazione, recessione dei consumi interni. E questo si vede bene anche dagli ordinativi alle imprese, che sono un segnale di anticipazione. Perché? Perché grazie ai mercati esteri il dato di marzo rispetto a febbraio ha fatto più 1,6%, però se si prendono gli ordinativi e li si confronta un anno prima, marzo su marzo 2012, beh, siamo a meno 10%. Dove reperire i soldi? L'abbiamo detto più volte, ma intanto ragioniamo anche di questa chicca a cavallo tra cronaca giudiziaria e in realtà cronaca economica. L'inchiesta sul Monte dei Paschi è arrivata nell'Oceano Pacifico, perché la banda del 5%, che poi è dello 0,05%, avrebbe trasferito una cospicua somma di denaro tramite operazioni strutturate da San Marino fino all'arcipelago della Repubblica di Vanuatu, paradiso fiscale, dove i soldi poi sarebbero rientrati in Italia tramite lo scudo fiscale. Questo sarebbe emerso dalle rogatorie. Nel frattempo noi torniamo a occuparci anche di chi la crisi la vive di più e chi la vive di meno. Perché? Perché il rapporto Save the Children, di cui sono già occupati i nostri GR, oggi la ricerca Save the Children, fa emergere una cosa molto importante sugli adolescenti italiani. Il 25% degli adolescenti italiani ritiene che il proprio futuro sarà più difficile rispetto a quello dei propri genitori, e un ragazzo su 4, quindi sempre il 25%, pensa di andare all'estero per assicurarsi un'opportunità. L'80% dei ragazzi dichiara di aver fatto delle rinunce a causa della crisi. Mentre Save the Children nel suo rapporto fa notare come l'Italia sia agli ultimi posti in Europa per povertà di futuro di bambini e adolescenti, e questo in occasione della campagna Allarme Infanzia. Deprivata, dicevo, la categoria dei bambini e degli adolescenti di opportunità, prospettive e competenze. Il taglio dei fondi per i minori e per la famiglia, la mancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e di lavoro sono le quattro principali ruberie, le chiama così Save the Children, ai danni di bambini e adolescenti. Queste le ruberie, diciamo, a danno delle future generazioni. Parliamo invece adesso di ipotesi di ruberie, perché c'è un'inchiesta in corso della Corte dei Conti che riguardano la Regione Piemonte, ma anche l'ospedale Bolognini di Seriate, e poi uno strano concorso di geni dell'architettura. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi appunto la pagina di Focus Economia su Facebook. sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Allora, un principio che potrebbe essere formulato così. Abbiamo spesso raccontato, quasi ogni giorno purtroppo, di spese non così giustificabili, sprechi, accuse della Corte dei Conti, indagini della magistratura su come nei consigli regionali, ma non solo, anche comunali, anche provinciali, anche nello Stato, venissero sprecati i nostri soldi. Uno potrebbe dire però, vabbè, magari le spese che si sono fatte rimborsare i consiglieri regionali sono alte, ma era alta anche la loro produttività, con un discorso un po' da settore privato, vabbè, ma il manager che ha molte responsabilità è giusto che goda anche di alcuni benefit. Purtroppo non è così, nel senso che, guardo un po' com'è la vita, proprio quelli che sono sotto inchieste, mi riferisco alla Regione Piemonte, per spese altissime, sono anche quelli che hanno prodotto molto poco. Allora, intanto è interessante sapere che di cosa si discuterà nel Consiglio regionale del Piemonte questo martedì, domani. Una riunione importantissima in cui verranno date diarie, rimborsi e quant'altro, per discutere di come tutelare il fungo epigeo chidovenia spontaneo in Piemonte. Come tutelare il fungo spontaneo in Piemonte. Ma il prossimo martedì c'è un'altra emergenza che verrà discussa in Consiglio regionale: la lingua italiana sta perdendo mediamente 30 parole base all'anno ed è ridotto a un miscuglio anglo-italico senza precedenti. Io pensavo che se ne occupasse la Crusca, non... Ma insomma, vediamo come hanno, se la produttività dei consiglieri accusati di aver speso il maggior numero di soldi è più alta di altri. Allora, partiamo da Maurizio Lupi del Movimento Verdi Verdi, indagato per aver indebitamente speso 74.000 euro di rimborso del gruppo. Beh, non è che sia così evidente. Se uno va a vedere le 30 proposte di legge di cui è primo firmatario, si scopre che si tratta di un contributo minimo del tipo modifica la legge regionale, nuova disciplina regionale sulla protezione dell'esposizione ai campi elettrici, e si è dedicato in modo ossessivo alla sua missione, la difesa dell'ambiente. 30 leggi in consiglio sul tema, da paura, non sto scherzando, paura per l'eccidio degli scoiattoli grigi, paura per l'eccidio degli scoiattoli grigi, a licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni non è valida in Piemonte, e su questo l'Italia si interroga, ma la cosa bella è che nessuna di queste proposte di legge è mai diventata legge, e quindi immagino che non ci sia più uno scoiattolo grigio, ma non ce l'ho con gli scoiattoli grigi, oltre il danno anche la beffa. E poi vediamo anche gli altri, i primi 7 posti per spese contestate dalla Procura di Torino nell'inchiesta Rimborsopoli. Si fanno rimborsare tanto, sono molto poco attivi però in Consiglio regionale, quindi molto presenti, retribuiti, niente affatto incisivi. Michele Dell'Utri ha dichiarato aver speso per sondaggi sulla popolazione piemontese 190.000 euro dei 210.000 contestatigli. Allora, i sondaggi pensavo li facessero gli istituti, ma no, li ha fatti lui. Ma che cosa ha fatto di questi sondaggi? Boh, perché al suo attivo ha un ordine del giorno per chiedere l'apertura dell'emodinamica Ivrea e 4 interpellanze su temi più insignificanti, dal tipo tutelare l'ippodromo di Vinovo in crisi, che anche quello con gli scoiattoli ci sta. Ora dico, in 4 anni questa mole di lavoro, però hai speso 210.000 euro che ti sono contestati, di cui 190.000 per un sondaggio, come abbiamo capito, forse un sondaggio sull'ippodromo, a questo punto immagino. Angiolino Mastrullo, PDL, 79.000 euro contestati. È quello che ha fatto un famosissimo ordine del giorno in cui si interrogava sul perché della presenza di un topo nella mensa dell'ospedale di Omegna. In Piemonte sono assassinati dagli animali, non potevano mettere assieme i topi, l'ippodromo, gli scoiattoli, no. Poi Giovanni Negro dell'UDC, 64.000 euro contestati, ha investito tutto il suo mandato su una proposta di legge. Uno dice, sapete che c'è, mi concentro su un'unica proposta di legge, quella del Museo Regionale dell'Emigrazione Vigezzina nel Mondo. Levi Strauss si rivolta nella tomba. Il cuore di Alberto Cortopassi, PDL, 50.000 euro contestati, invece batte nel Vercellese. E si è ha fatto un'interrogazione molto importante per il rischio dove cavolo è che adesso la trovo, per il rischio che venga abolito l'ente per la tutela del riso, ente nazionale risi, che è minacciato di estinzione dal Ministero dell'Economia, che l'ha inserito nei 20 enti inutili italiani. E vabbè, tutta una minaccia. E poi Roberto Boniperti, gruppo misto, 37.000 euro, è preoccupato per il destino della lingua italiana, appunto, e ha fatto quattro interrogazioni. Complimenti alla produttività sugli scoiattoli, sull'ippodromo di Vinovo, sull'ente riso, sul topo nella mensa dell'ospedale e cos'altro? Gli scoiattoli li ho già detti. Ah sì, certo, è il museo dell'immigrazione vigeziana nel mondo. Passiamo invece a Bergamo, dove c'è un caso eclatante, perché la Guardia di Finanza sta indagando sull'utilizzo dell'auto blu per il direttore dell'ospedale Bolognini di Seriate, perché nell'estate dell'anno scorso si è fatto si è avvalso dell'automobile dell'autista, perché si è fatto ha fatto partire l'autista da Seriate, è arrivato fino all'isola croata di Kres a prendere il direttore generale che era lì in vacanza, lo ha riportato al Bolognini e il giorno dopo lo ha riaccompagnato in Croazia, no? 2000 km circa, per poi tornare da solo l'autista dalla Croazia. Ora, si sta cercando di capire intanto perché fosse così urgente, anche perché lui giustifica il fatto che era necessaria la sua presenza con un'urgenza fortissima tale da richiedere all'autista il viaggio. In realtà la Guardia di Finanza è andata a guardare, ha visto i documenti prodotti all'ospedale con timbre e firme che dimostrano sì la presenza del direttore generale in quei due giorni, ma non sembrano giustificare l'urgenza che ne è seguita. Dopodiché io mi chiedo se veramente si debba mandare un autista da Milano, da Seriate in Croazia, nell'isola di Kres, dov'è cavolo era, e farsi riportare Kres e farsi riportare indietro e poi far tornare l'autista da Kres a Milano. Ultimo caso, invece, una buona notizia, perché questo è un paese da far impallidire architetti che hanno fatto la storia dell'architettura, penso a Lloyd Wright, penso alle Corbusier, insomma penso anche a quelli viventi, Renzo Piano, la scomparsa Gaio Lenti, a Fuxas. Perché? Perché la giunta Alemanno a Roma ha fatto ha indetto un bando per 136 posti da architetto del Comune di Roma, no? Che parte del concorsone da 2000 posti per 22 diverse figure professionali svoltosi lo scorso dicembre. Beh, su 1177 partecipanti, 1176 hanno superato la prova scritta con lo stesso voto, tra il 7 e il 7,5. L'altro non ho capito. E la giustificazione, perché insomma molti hanno avanzato dubbi, no? I membri della commissione giudicatrice, l'ordine degli architetti, l'assessore delle risorse umane Enrico Cavallari, hanno ricevuto moltissime mail e domande di protesta, c'è anche un gruppo su Facebook. L'assessore Cavallari si è difeso in un modo bellissimo e gli facciamo un bel applauso adesso e poi andiamo in pubblicità. Dice: la verità è che il fatto che vi siano 1176 voti quasi uguali su 1176 partecipanti, tutti altissimi, tra il 7 e il 7,5, è la dimostrazione che questi test vengono giudicati da esseri umani, non da macchine in automatico. Tra l'altro, insomma, tutti promossi sembra per favorire gli interni, perché poi la seconda prova verranno tagliati quelli che non sono in grado di impostare uno schema di delibera. Ma insomma, come si fa a rispondere hanno tutti lo stesso voto perché li giudicano dagli esseri umani e la coincidenza può essere che ci sono 1176 voti uguali su 1177 partecipanti? Grandissima lezione di filosofia della scienza da parte dell'assessore Cavallari, che si becca il nostro applauso. Voglio che vi alziate proprio adesso, andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. 17:43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, facciamo un rapidissimo sondaggio. Non posso parlare degli scoiattoli grigi. L'ippodromo, è vero che ci sono anche i lavoratori, però insomma, mi sembra il punto non era sull'importanza o meno, anche se, ma era insomma, se uno può già spendere così tanto e lavorare così poco, per dire brutalmente. Un rapidissimo sondaggio, poi passiamo al tema dell'IVA. Alcuni dicono che lo stacco, diciamo, la base di Rino Gaetano non te regge più. Non si regge più. Allora facciamo un sondaggio rapidissimo: 349-238-6666 e poi sulla pagina di Focus Economia su Facebook. Se non la cambiamo, in maniera molto democratica, cambio la base, non il tema, come sperano alcuni. Un po' di funky, ma per funkeggiare c'è poco, visto che il primo luglio è passata un po' in sordina la cosa, però il primo luglio, se non cambiano le cose, scatta l'IVA dal 21 al 22%, che a mio avviso rischia di fare più male ancora dell'IMU, su cui tutta la battaglia politica si è concentrata. E i commercianti stanno lanciando l'allarme, lo ha fatto ieri la Confcommercio, calcolando 135 euro di stangata a famiglia, per una famiglia di 3 persone, con un impatto sul 60-70% dei consumi. E oggi è tornata la Confesercenti, che teme un calo addirittura del gettito fiscale, cioè un effetto boomerang dell'aumento dell'IVA. Chiedo conferma al presidente della Confesercenti, che raggruppa oltre 350.000 imprese del commercio, Marco Venturi. Buonasera. Buonasera. Allora, presidente Venturi, voi temete, se ho ben capito, al di là dell'essere contro l'aumento dell'IVA sui consumi, questo lo capiamo tutti, che vi possa essere un effetto boomerang, cioè lo Stato aumenta l'IVA e da lì vorrebbe vedere arrivare 3 miliardi. Non è che era già deciso dal governo Monti, in assenza di manovre di altro genere, l'IVA veniva aumentata in automatico, questo per rispetto degli accordi presi con l'Europa. Come mai temete che vi possa essere addirittura un effetto boomerang, cioè non solo lo Stato non incasserà quanto dovuto, ma anche di meno? Certamente, perché i consumi già vanno male, è chiaro che se noi continuiamo sulla via dell'aumento della pressione fiscale, in questo caso dell'IVA, quindi dal vecchio 20 arriveremmo al 22, e diventa un boomerang, e quindi noi abbiamo calcolato che invece dei 3 miliardi attesi di maggiori entrate ci troveremmo con 300 milioni in meno, perché i consumi già vanno male, basta vedere per esempio le chiusure delle attività commerciali. Nel 2012 hanno chiuso 135.000 imprese, 42.000 già nell'inizio del 2013, quindi un vero e proprio disastro, quindi la caduta del reddito, che negli ultimi anni, dal 2007 al 2012, è stato di 238 miliardi di euro delle famiglie, parlo del reddito complessivo, quindi con un crollo della spesa. È chiaro che se noi continuiamo su questa via, testardamente aggiungo, noi rischiamo il boomerang, e quindi che il tutto diventi addirittura a saldo negativo, e quindi rispetto a quello che volevano ottenere otterranno il risultato opposto, ma con l'aggiunta che metteranno ancora di più in crisi le imprese, e quindi il lavoro e le prospettive del paese. Presidente Venturi, lei, se dovesse scegliere, in quanto appunto presidente di oltre 350.000 imprese, ma anche come cittadino, preferirebbe tenere l'IVA al 21% e avere l'IMU sulla prima casa? Ma guardi, io preferisco tagliare la spesa pubblica. Ah, questo abbiamo... siamo tutti... Certo, e io non nessuno delle due, io dico che bisogna agire su quel fronte e non si vuole ancora agire su quel fronte. Abbiamo presentato dei rapporti sugli sprechi che si fanno nel nostro paese, abbiamo presentato un rapporto in cui si diceva, ma questo già 10 anni fa, le province, i microcomuni, le comunità montane, le società di servizi, cioè se non si affrontano questi nodi, noi continueremo a girare intorno a una pressione fiscale che ormai è insopportabile, è oltre, diciamo, le medie europee, quindi dei paesi avanzati. Non è questo il terreno, in questo modo si bruciano imprese e si brucia lavoro, questo è il risultato finale che si crea. Sì, però mi scusi se le metto di fronte alla domanda, insomma, della Torre, ma ho capito anch'io, bisogna ridurre la spesa pubblica, o meglio, guardi, anche spendere meglio più che ridurla, perché rispetto al PIL, lo diciamo spesso, noi non abbiamo una spesa pubblica così fuori controllo, 2 punti in più della Germania, molto meno della Francia. Il problema è che è spesa male, che è poco efficiente e che i tagli sono lineari, lo sappiamo tutti, per cui tu vai a tagliare in maniera indiscriminata da una parte all'altra, però dico, come misura di emergenza, siccome qui ci sono degli impegni presi, ha ragione l'ascoltatore, prima dal governo Berlusconi, ossia Tremonti, poi diciamo implementati e confermati dal governo Monti, però dico, lei sceglierebbe più l'IMU o più l'IVA? Scelgo, no. Certo che non scelgo, non si può continuare sulla via dell'aumento della pressione fiscale da tutte le parti, IMU o IVA o altri, quindi deprimere l'edilizia, deprimere i consumi, deprimere, non è più questa la via, è un errore che si sta facendo. Secondo me si può intervenire e tagliare anche da subito tutta una serie di cose, non è così, e quindi se non si affronta, se non si decide di andare in questa direzione, perché ci sono resistenze politiche a tagliare, è inutile girare intorno a questo problema. Allora, o si ha il coraggio di voltare pagina, oppure noi non daremo mai il consenso. Noi ci troviamo una pressione fiscale che è mediamente più alta degli altri paesi europei. Perché dobbiamo continuare solo su quella strada? Noi non l'accetteremo mai. Quindi non accetta la Torre. Resti con noi, Presidente Venturi, perché un'altra domanda da farle sui settori che più soffrono nel mondo del commercio, visto che spesso ci occupiamo dell'edilizia, del settore del manifatturiero, ma anche nel mondo del commercio, e il vostro timore sulla tenuta fino a fine d'anno. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Darò anche poi il risultato di questo così referendum molto molto molto alla mano, lo si fa anche per respirare un attimo, lo dico anche agli ascoltatori, se no parlare di produzione industriale, fatturato, ordinativi, IVA, no, cioè qui diventa il 2 di novembre, traffico. Strade in diretta. Buonasera, traffico intenso attorno alle grandi città, i cantieri invece causano difficoltà sulle autostrade e sulle autosole, ci sono circa 3 km di coda per lavori tra l'innesto con la 22 del Brennero e lo svincolo di Reggio Emilia verso Milano. Sempre in A1 2 km di coda per lavori lungo l'Appennino tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello verso Firenze. Code per lavori sull'autosole anche tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna e in uscita lo svincolo di Piacenza Sud verso Milano. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si rallenta in galleria in direzione di Brescia tra Vicenza Est e Vicenza Ovest, il traffico è deviato sulla tangenziale sud di Vicenza. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento tra mezz'ora circa. Focus Economia. Allora, Presidente Venturi, ho capito benissimo il suo ragionamento, né tenere l'IMU né tenere l'aumento dell'IVA, però poi lei sa benissimo che siccome qua il governo vuole 3 miliardi e anche se iniziassimo a lavorare adesso sulla spesa pubblica, da qui a luglio non li troviamo, ci beccheremo l'aumento dell'IVA. Non mi sembra che il Consiglio dei Ministri se ne sia parlato, tra l'altro, venerdì. Mi dica. La Corte dei Conti ha detto che negli 800 miliardi di euro di spesa pubblica ce ne sono 60 miliardi di corruzione. Insomma, è vero. Si faccia qualcosa in questa direzione, non vengano sempre, abbiamo una pressione ormai insopportabile, non si può agire più su quello, quindi l'economia sommersa, anche qui è un'altra partita da 260 miliardi, quella illegale, un altro 11%, altri 174 miliardi, ma questi nodi quando li affrontiamo? No, guardi, su questo lei ha ragione, perché c'è un doppio binario, lo diciamo spesso anche quando parliamo della Germania, dell'Europa. Allora, un conto è far respirare un paese, oppure in questo caso trovare le risorse immediate per uscire dalla procedura di infrazione. Però poi non può essere la scusa, lo dico anche se io ho sempre difeso una linea più morbida dell'Europa. Attenzione, avere un'Europa che ti contabilizza fuori dal deficit alcune spese per investimenti, per il futuro, per la defiscalizzazione, non può poi dire vabbè, allora a questo punto non facciamo più le riforme nostre, che vuol dire concorrenza, voi non avete un problema, siete già in concorrenza, ci sono tanti settori molto protetti in questo paese, la burocrazia, mi faccia dire Venturi, non si capisce perché nessun governo non abbia il coraggio di fare l'autocertificazione su tutto, no? Vuoi fare un autocertifica, ti do delle pene pesantissime, sementi, ma andiamo avanti, non ci si possono mettere 230 giorni qua contro i 60 in Spagna per aprire un capannone, certo. E via così. Detto questo, però, Venturi, lo sappiamo io, lei e anche gli ascoltatori, che tanto non si riesce a trovare 3 miliardi da qua a luglio, soprattutto quelli che siamo per l'IVA. Allora, il vostro timore è come arriverete a fine anno? Ma noi arriveremo in fortissima difficoltà, le imprese continuano a chiudere, come dicevo, quindi io per questo insisto che non si, cioè noi rischiamo di farci del male, non a risolvere i problemi. E poi, dato che questa storia ce la sentiamo raccontare da decenni, non possiamo fare subito provvedimenti di questo certo tipo, e quindi aumentiamo, è una storia vecchia, bisogna mettere un punto fermo, voltare pagina su questo, perché se no non ne usciremo mai più da questa storia, e quindi noi riteniamo che semmai bisogna aprire un fronte, lo aprano sull'economia sommersa. Voglio dire, è pesantissima, siamo a 260 miliardi, come dicevo prima, insomma, non è possibile che non si apre nessun fronte con la scusa, ma servono subito e quindi... Ma io su questo sono d'accordo, personalmente ritengo che farà più male l'aumento dell'IVA che eliminare l'IMU. Personalmente, perché poi una base strutturale va a aumentare l'inflazione. Su quello sono d'accordo. Ecco, me l'ha detto. L'IVA diventa uno, come dicevo prima, rispetto alle aspettative, addirittura ci sarà un risultato negativo perché inciderà fortemente. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, su IMU contro IVA, siamo tutti d'accordo con il Presidente Venturi che sarebbe da non aumentare né l'IVA sospendere l'IMU sulla prima casa, quantomeno. Alcuni ascoltatori fanno notare che in realtà l'IMU è una tassa, una imposta più corretta rispetto all'IVA, perché andrebbe a colpire comunque chi ha teoricamente case di maggior pregio, quindi, mentre l'IVA fa del male a tutti, fa del male e quindi in proporzione fa più male a chi meno ha. Questa è un'obiezione assolutamente corretta, vedo che adesso molte agenzie battono, ormai l'IVA partirà al 1° di luglio, alcol, tabacchi e quant'altro. È vero, da un punto di vista economico e dei consumi è correttissimo. Se avessimo un catasto aggiornato, l'IMU sarebbe più proporzionale, più corretta sulla ricchezza, essendo una specie di imposta patrimoniale, rispetto all'IVA che va a incidere anche su beni di prima necessità e quindi va a colpire di più chi ha un reddito più basso. Il nostro sondaggio, vedo che la maggior parte di voi vogliono che si tenga Rino Gaetano sulla come base, stacco per gli sprechi della nostra pubblica amministrazione. Abbiamo ricevuto anche altri suggerimenti, poi magari li utilizzeremo. E invece la buona notizia di oggi riguarda ancora una volta le borse, che vivono in un altro pianeta rispetto all'economia cosiddetta reale che noi raccontiamo, perché oggi ha toccato un nuovo massimo dal settembre del 2000, anche Londra più 0,48% in chiusura, l'indice FTSE 100, quindi i primi 100 titoli per capitalizzazione della borsa britannica, è arrivato a 6.755 punti e nuovo record anche per la borsa di Francoforte, più 0,70% oggi, il DAX a 8.455 punti. E quindi, insomma, Francoforte dopo il Giappone, Francoforte rinnova il record e Londra va a record dal settembre del 2000. Intanto Milano ha chiuso con un meno 0,56%, ma oggi pesa lo stacco delle cedole, dei dividendi, che ha un effetto intorno a 1,5% sull'indice. Ne parliamo subito con i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore, allora borsa sia. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Quanto pesa complessivamente sull'indice lo stacco cedole? Sul FTSE MIB 1,6%, ecco. Ben 22 società su 40 hanno staccato la cedola, quindi l'effetto era inevitabile, soprattutto perché c'erano molte delle più pesanti come Eni con Unicredit, come Intesa Generali. Quindi senza quello stacco delle cedole oggi avremmo guadagnato sostanzialmente l'1,2%? Sì, ma di circa l'1%, diciamo. L'1%, quindi saremmo stati anche la miglior borsa. Cioè, in realtà lo siamo stati perché è normale che il titolo, quando viene staccato la cedola, perda, no? Perché si è mosso per arrivare a quel livello. Lo stacco del dividendo vuol dire la parte di utili di un gruppo quotato in borsa che dividi agli azionisti, che dai agli azionisti. Ora, che è chiaro che se ho un titolo che vale 10 euro e do un dividendo di un euro, che sarebbe veramente bellissimo, il titolo si avvicinerà al livello dello stacco della cedola per poi calare il giorno stesso dello stacco, no? Se no tutti comprerebbero il titolo il giorno prima per guadagnare un euro di cedola più con un titolo che vale 10 euro. Detto questo, staccavano la cedola Snam, ha perso 2,80, Eni meno 2,60, Pirelli meno 2,40, Atlantia meno 2,40%, l'automatica meno 1,80, anche Saipem, Andrea? Sì, anche Saipem ha staccato una cedola da 0,68. E quindi meno 1,80 anche Saipem, Tenaris meno 1,60. Andiamo su chi la cedola non l'ha staccata, e mi riferisco a ST Microelectronics più 3,14, Banco Popolare più 2,60, Prismian ex Pirelli Cavi più 2,50%, Fondiaria più 2, Monte dei Paschi più 1,80. Poi si era distinta in giornata, soprattutto anche in pregilo, che chiude con un più 14,81%. Qui c'è una notizia anche di mercato, di commessa, Andrea. Sì, un insieme di fattori. Innanzitutto la notizia di mercato che tu ricordavi, cioè l'importante commessa in Qatar, commessa da 1,7 miliardi, a cui per l'intero consorzio a cui partecipa in pregiro, la quota in pregiro è intorno ai 700 milioni per una linea metropolitana a Doha. Dall'altro canto, tuttavia, questo non spiegherebbe un più 15% se non con un flottante molto risicato di impregilo dopo l'OPA Salini. Salini ha ricostituito il flottante minimo del 10%, quindi questo ha riportato delle rinegoziazioni sul titolo, questo spiega questa fiammata del titolo che ha guadagnato il 15%. Questo per quello che riguarda impregilo. Andando invece sui titoli della maggiore capitalizzazione, citavo l'andamento appunto di ST Microelectronics più 3,14. Sì, per quanto riguarda ST ci sono state alcune raccomandazioni importanti di case d'affari che hanno spinto il titolo, e HSBC e anche JP Morgan in particolare hanno ricoperto con consigli al rialzo sul titolo. La stessa cosa vale per Prismian, nonostante una trimestrale non bellissima, leggermente in linea sotto le attese, tuttavia gli analisti sono fiduciosi che diciamo così, il riposizionamento del business prosegua positivamente nel corso del 2013, e quindi qualche casa d'affari consiglia l'acquisto su Prismian, che oggi ha guadagnato il 2,5%. Ancora, altro titolo, dicevamo appunto ST Microelectronics, raccomandazioni positive di JP Morgan, Prismian, tu lo ricordavi, e appunto c'è un titolo che ha fatto un botto, in realtà il migliore in assoluto, Risanamento, più 21,4%, ex Zunino, anche qui è notizia di mercato. Sì, assolutamente, è una notizia che riguarda il dissequestro di alcune aree dell'area di Milano Santa Giulia appartenenti appunto al Risanamento. Le aree dissequestrate sono le aree Sky e NH Hotel, questo annuncio, dopo che le aree erano state appunto sottoposte a sequestro preventivo, permette alla società di immobiliare di incassare un'ottima notizia, quindi il mercato vede un orizzonte positivo per questa società e premia il titolo nel modo che tu hai detto. Ancora, per quello che riguarda i titoli che si sono mossi bene oggi, ripeto, Fondiera Sai più 2%, Monte dei Paschi più 1,80 e di Prismian, qui mi confermi appunto nonostante la trimestrale più 2,5%, A2A più 1,60, Azimut più 1,5. Novità sui bancari? non ci sono novità particolari. Oggi abbiamo visto ancora uno spread in correzione, mm-hmm. Quindi un andamento che ha interessato un po' i bancari tutti i bancari quotati, a eccezione di quelli che hanno staccato la cedola, come abbiamo detto. Vediamo che le popolari sono molto ben comprate, e anche il Monte dei Paschi è stato positivo, ma anche la Popolare di Milano e la Popolare dell'Emilia Romagna hanno corso più dell'indice, quindi un rialzo superiore all'1%. I peggiori di May Group, -4,15%, Cattolica Assicurazione -4,12%, Asco Piave -4%, novità su Asco Piave? No. No, non ci sono novità. Ce lo chiedono gli ascoltatori. Monriff invece bene, +6,90%, Tiscri +5,70%, Papapà Poligrafici Editoriale +13,30%. Grazie Andrea Fontana. Allora, il sonoro che avete ascoltato è quello di un anno fa, di quando crollò quello che poi è diventato purtroppo nell'immaginario il simbolo forse più forte di quel terremoto dell'Emilia Romagna, il campanile di Cavezzo, quello poi fotografato in tutti i giornali, qualcuno lo ricorderà con l'orologio, adesso vado a memoria, spezzato a metà. Un anno dopo sarebbe sbagliato dire che le cose sono rimaste ferme. Non facciamo sempre del facile populismo. I soldi in parte sono arrivati, in parte c'è stata la grande capacità degli emiliani di rimboccarsi le maniche. Allora, la situazione attuale, se non posso ogni volta rifare il punto, ma insomma, su 57 comuni colpiti, 550.000 persone coinvolte e 17 miliardi di danni. La situazione attuale è che ci sono stati fondi statali per 2,5 miliardi, 670 milioni sono arrivati dall'Unione Europea, la Cassa Depositi e Prestiti ha trovato 12 miliardi per imposte, quindi sospensione dei versamenti delle imposte, premi assicurativi e fondi per utili famiglie e imprese. Ci sono ancora 2.600 casse integrati, 2.400 posti di lavoro persi, 930 imprese hanno chiesto contributi per la delocalizzazione temporanea. E poi ci sono 1.000 lavoratori in più nel comparto costruzioni, 16 zone rosse, quelle bloccate, delimitate, hanno riaperto, 5.000 le famiglie rientrate in casa, 1.000 posti di lavoro invece persi nel commercio e nella ristorazione, ancora 7.900 edifici inagibili per le strutture ospedaliere stanziate, 54 milioni di euro, ma sono anche riusciti a non perdere giorni di scuola gli studenti delle zone colpite. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Confindustria Emilia Romagna, Maurizio Marchesini, buonasera. Buonasera. Guardi, non ho molte domande da farle, nel senso che vorrei capire, nei prossimi 5 minuti che abbiamo, al di là appunto dei soldi che io ricordavo, che cosa manca. Questo è un programma che si occupa di economia, alla parte produttiva emiliana. La settimana scorsa ci siamo occupati anche del distretto biomedicale, dove è stata un'iniziativa anche importante. Che cosa chiedete, visto che la concretezza, diciamo, è un po' l'emblema della vostra regione? Ma guardi, devo fare una premessa brevissima. La premessa è questa, che abbiamo scoperto una cosa con questo terremoto. Abbiamo scoperto che questo è un paese che si muove molto bene nell'emergenza, ma poi non ha regole, leggi, sistemi per la ricostruzione. E questo è un po' il cuore del problema, nel senso che noi stiamo faticosamente, assieme alla Regione, assieme al Governo, assieme alle istituzioni, costruendoci questo quadro, il quadro che serve per la ricostruzione. E questo è anche un po' il cuore del problema, perché quando si parte da zero, degli errori se ne fanno. Qual è la situazione adesso? La situazione è che i soldi sono a disposizione, però la costruzione sta andando molto a rilento. Basti dire che in questo momento di domande per la ricostruzione degli stabilimenti siamo, tra l'altro ne faccio notare che il sistema attraverso cui chiedere i contributi si chiama Sfinge, non è uno scherzo, vero? In questo momento le domande sono 109. Sì, di quello ci occupammo anche quando venivamo a Mirandola per fare la diretta del Focus Economia, se non ricordo male. Esattamente. Cioè la difficoltà bizantina a sfingere nel riuscire a fare le domande, ma non si, io mi dico, ma perché non utilizzate l'autocertificazione in questo paese? No, guardi, si usa, devo dire una cosa, come l'ho già detto, stiamo scontando il fatto di essere di nuovo pionieri in questa cosa, purtroppo. Devo anche dire che questo sistema, cioè, noi vogliamo meno burocrazia, diciamo le cose come stanno, però bisogna che ci prendiamo anche più responsabilità, sì, noi giusto. E i nostri professionisti. E questo è una delle tante cose, non c'è un punto base che tiene ferma la ricostruzione. Ah, by the way, a parte va detto che comunque le imprese hanno ricominciato a lavorare con mezzi propri, con mezzi provvisori, a fatica, ma noi calcoliamo che il 90% delle imprese abbia ripreso l'attività e che la produzione sia circa attorno al 70-75% di quella pre-terremoto, facendo anche datare che purtroppo c'è anche la crisi economica. Certo. Però effettivamente cosa vorremmo? Vorremmo chiaramente, se avete desiderio di tutti, di vedere le nostre imprese, le nostre città ricostruite nel più breve tempo possibile, però credo che dovremmo traguardare il risultato con un spazio temporale più lungo, attorno ai 3-5 anni. Ma mi dica un'ultima cosa, perché stiamo per chiudere, ma il fatto che ancora le domande delle imprese siano così poche è dovuto a una difficoltà, negligenza, pigrizia, poca esperienza degli imprenditori, o è veramente rimasto così difficile il meccanismo? No, né l'uno né l'altro. Guardi, ci sono, non volevo addentrarmi nei dettagli, ma ci sono. Intanto le imprese che devono prima chiudere i loro contenziosi con le assicurazioni, perché i contributi sono ovviamente al netto dei premi assicurativi, come ovvio. Certo. Intanto, giustamente, tutti i nostri imprenditori, dal momento che ricostruiscono, vogliono anche sistemare alcune cose, ricostruire non solo più sicuro, ma anche meglio, e questo richiede un po' di passaggi in più. Poi c'è un problema, ad esempio, delle white list. Ricordiamoci che sono denari pubblici e ricordiamoci che c'è un rischio di infiltrazione, ma anche le white list, io non discuto il fatto che bisogna tenere alta la guardia, ci mancherebbe altro, però sono un altro passaggio burocratico. E ovviamente la regione sta aggiornando di giorno in giorno per rendere più semplice anche ovviamente le normative, ma questo poi ha un risultato sul software, che a volte non corrisponde all'ultima normativa. È un assieme di ragioni che sta rallentando un po' il processo. No, ma l'importante era, mi ha fatto bene a ricordarlo lei con estrema correttezza e onestà, non c'è una ragione chiamata burocrazia in senso stretto, come spesso affrontiamo in questo programma, ci sono un insieme di variabili. Oh, la vita è anche complicata, no? Non è facile sempre trovare interpretazioni e soluzioni giornalistiche da titolo. Io vi auguro in bocca al lupo a tutti gli abitanti delle zone colpite, e chiaramente non solo dall'Emilia Romagna ma anche una piccola parte del Veneto e della Lombardia, in bocca al lupo ai suoi associati. Grazie al presidente di Confindustria Emilia Romagna Maurizio Marchesini, continua il nostro viaggio e poi continuerà anche il prossimo 29 di maggio. Intanto da Sebastiano Barisoni, auguro una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.